cosa farò ora che tu vai via? Dimmi cosa farai. Cederò alla pazzia per scordarmi di te. Farò il diavolo a tre. Sarò forte domani, vedrai, sarò forte. Cosa farai se dormire non puoi? Dimmi cosa dirai alla gente di noi. È finita così e ti ritroverai in un solo momento a cercare nel vento. Quando sognavi con me la tua casa, già ti vedevi vestita di rosa. Vicino a me ti sentivi sicura, senza problemi, senza paura. Come una stella brillavi, eri mia. Correva forte la tua fantasia. Sembrava tutto più bello di un gioco. Era l'amore, non era poco. E ci ripenso, giorno e notte ti penso. Niente di strano, ti bastava una mano. Ma come un cretino io non me ne accorgevo. Mamma mia che disordine, cosa farò? Quanti giorni da spendere senza di te, solo a pensare. Quando fermavi minuti, le ore, per non sciupare un momento d'amore. Com'eri bella tra quelle lenzuola, e la mia mente ancora vola. Quando stringevi più forte il cuscino, dicevi un bambino, sembrava tutto più bello di un gioco. Era l'amore, non era poco. È finita così e ti ritroverai in un solo momento a cercare nel vento. Quando sognavi con me la tua casa, già ti vedevi vestita di rosa. Vicino a me ti sentivi sicura, senza problemi, senza paura. Quando fermavi i minuti, le ore, per non sciupare un momento d'amore. Come eri bella tra quelle lenzuola, e la mia mente ancora vola. Quando stringevi più forte il cuscino, dicevi pensa se fosse un bambino. Sembrava tutto